Paragrafo primo. Considerazioni sullo studio della verità. Si può dire che lo studio della verità è facile sotto un certo profilo, difficile sotto un altro. Ne è prova il fatto che nessuno può condurlo a termine adeguatamente e nello stesso tempo nessuno è completamente estraneo ad esso, ma ciascuno ha da dire qualcosa circa la natura. E anche se i filosofi singolarmente presi non hanno dato alcun contributo o hanno contribuito solo in piccola parte alla conoscenza di essa, tutti quanti messi insieme hanno conseguito risultati di una certa importanza. Sicché, se noi intendiamo paragonare la verità a quella porta proverbiale che nessuno potrebbe sbagliare, essa può risultare facilmente raggiungibile. Ma il fatto che noi, pur possedendone una visione d'insieme, non siamo in grado di conoscerla nelle sue parti, sta a indicare con evidenza quanto essa sia ardua. Ma quantunque la difficoltà si determini in due maniere, forse, nel caso presente, bisogna individuarne la causa non già nella realtà oggettiva, bensì in noi. Come infatti gli occhi dei pipistrelli si comportano di fronte alla luce del giorno, così anche la parte intellettiva della nostra anima si comporta di fronte alle cose che, per natura, sono della massima evidenza. Ecco perché è giusto serbare gratitudine non solo verso quelli le cui dottrine si potrebbero condividere, bensì anche verso quelli che si sono espressi in maniera alquanto rudimentale. Anche costoro, infatti, hanno pur contribuito a qualcosa, giacché hanno messo in esercizio le nostre facoltà mentali. Se infatti Timoteo non fosse esistito, noi non possederemmo tante melodie, ma se non ci fosse stato Frinide, non ci sarebbe stato neppure Timoteo. La stessa cosa si riscontra anche in quelli che hanno espresso le loro dottrine intorno alla verità. Da alcuni di loro, infatti, noi abbiamo ereditato alcune dottrine, ma precedentemente ne sono esistiti altri che hanno contribuito a farle nascere in loro. È esatto, altresì, chiamare la filosofia scienza della verità. Infatti, lo scopo ultimo dell'attività teoretica è la verità, come l'azione è lo scopo dell'attività pratica, giacché gli uomini d'azione, anche quando osservano il modo in cui stanno le cose, non si mettono a contemplare la causa in se stessa, ma ne scorgono solo la relazione con uno scopo e con una circostanza determinata. Ma noi non conosciamo la verità senza conoscere la causa, e la cosa che, fra tutte le altre, possiede in modo eminente la proprietà di essere causa, è proprio quella mediante la quale la determinazione comune diviene proprietà anche delle altre cose. Così, ad esempio, il fuoco è caldo in modo eminente, giacché esso è la causa del calore per le altre cose. Però è sempre maggiormente vero ciò che è causa della verità anche per le cose che da esse derivano. Ecco perché i principi degli enti eterni non possono non essere sempre sommamente veri, giacché essi non sono veri soltanto qualche volta, né la loro esistenza è causata da alcunché, ma sono essi che causano l'esistenza di tutte le altre cose. E quindi ciascuna cosa possiede tanto di verità quanto possiede di essere. Paragrafo secondo. Incompatibilità tra il concetto di causa e quello di infinito. È ovvio, d'altra parte, che esiste un primo principio e che le cause degli esseri non sono infinite, né in senso ascensionale, né per il numero delle specie. È impossibile, infatti, concepire un processo all'infinito sia per quanto concerne la derivazione materiale di una cosa dall'altra, ad esempio che la carne derivi dalla terra, la terra dall'aria, l'aria dal fuoco e così via senza fermarsi, sia per quanto concerne la causa da cui si origina il movimento, ad esempio che l'uomo è mosso dall'aria, questa dal sole, il sole dalla contesa, e che di ciò non si dia alcun limite. E allo stesso modo non è possibile che ci sia un processo all'infinito neppure della causa finale, che cioè una passeggiata abbia come fine la buona salute, e questa la felicità, e la felicità un'altra cosa, e che così, sempre, una cosa esista in vista di un'altra. né diversamente avviene a proposito della causa formale. Difatti, in una serie di termini mediani, prima e dopo dei quali ci sia qualche altro termine, necessariamente il termine anteriore è causa di quelli che sono successivi ad esso. Se noi dovessimo determinare quale di questi tre termini è causa, diremmo senz'altro che è il primo, giacché non è certamente causa né quello posteriore, per il fatto che il termine finale non è causa di nulla, né quello mediano, essendo questo causa di un solo altro termine. Ne c'è differenza se si tratta di un solo termine mediano o di più e se questi siano numericamente infiniti o finiti. Ma tanto le serie concepite come infinite in questo modo, quanto l'infinito in generale, hanno tutte le loro parti ugualmente intermedie, finché non si arrivi al termine presentemente in questione. Però, se non esiste un primo termine, non c'è assolutamente neppure alcuna causa, ma neppure in direzione discendente. Quando si assegna un inizio al termine più alto, si può riscontrare un processo all'infinito in modo tale che dal fuoco proceda l'acqua, da questa la terra, e così via, venga sempre a generarsi qualche altro genere di cose. In realtà, una cosa può procedere da un'altra in due modi, escludendo quello in cui l'espressione procedere sta a indicare soltanto una successione temporale, come quando diciamo che i giochi olimpici procedono da quelli istmici. Ossia, o nel senso che l'uomo adulto procede dal cangiamento del fanciullo, o nel senso che l'aria procede dall'acqua. Quando noi diciamo che un uomo adulto procede dal fanciullo, vogliamo significare che la cosa che ha attuato il divenire procede da quella che lo sta attuando, ovvero che la cosa perfettamente compiuta procede da quella che è in via di compimento. Difatti, come in linea generale c'è un divenire tra l'essere e non essere, anche l'oggetto che si va generando è sempre un intermedio tra ciò che è e ciò che non è. Chi ad esempio si mette ad imparare sta diventando istruito, ed appunto questo vuol significare l'espressione «l'uomo istruito viene fuori dall'uomo che impara». Quando invece diciamo che l'acqua procede dall'aria, noi vogliamo significare che il processo si attua con la distruzione di uno dei due termini. Ecco perché, nel primo caso, i due termini non sono reversibili, né da uomo adulto si ritorna fanciullo, giacché ciò che si viene producendo non deriva da una vera e propria generazione, ma da ciò che già presuppone la generazione. Così, infatti, anche il giorno procede dal mattino, perché viene dopo di esso, e perciò il mattino non procede affatto dal giorno. Nel secondo caso, invece, i termini sono reversibili. In entrambi i casi, però, il processo all'infinito resta impossibile. Nel primo, infatti, poiché i termini sono intermedi, devono avere necessariamente una fine. Nel secondo, i termini ritornano sempre su se stessi, giacché la distruzione del primo non è altro se non la generazione del secondo. Nello stesso tempo, la causa prima, essendo eterna, non può perire, poiché, infatti, il processo della generazione in senso ascendente non va all'infinito, sia necessariamente che non è eterna quella causa che, pur essendo la causa prima, sia stata distrutta proprio nell'atto di generare qualcosa. D'altra parte, poiché è un fine ciò in virtù di cui una cosa esiste, e poiché è tale non ciò che deve la propria esistenza ad altro, ma ciò in virtù di cui esistono le altre cose, si avrà di conseguenza che, se esiste un termine finale di tal genere, non vi sarà processo all'infinito. E se invece un tale termine non esiste, non esisterà una causa finale, laddove i sostenitori dell'infinito sopprimono inconsapevolmente la natura del bene, quantunque nessuno intraprenderebbe alcuna azione senza proporsi il raggiungimento di un limite. Né vi sarebbe intelligenza del mondo, giacché chi è fornito di intelligenza agisce sempre in vista di qualcosa, e questo qualcosa è un limite. Infatti, fine e limite si identificano. Ma non si può neanche far risalire la causa formale ad un'altra definizione che abbia un significato più estensivo, cioè in ogni caso la definizione anteriore è più autenticamente tale, mentre non è tale quella che è posteriore rispetto ad essa. E dove non esiste il termine iniziale, non esiste neppure quello susseguente. Inoltre, i sostenitori di una tale dottrina sopprimono la conoscenza scientifica, giacché non è possibile conoscere senza essere prima giunti ai termini indivisibili di una definizione. E viene annullata anche la conoscenza comune, giacché è impossibile pensare cose che sono infinite in questo modo. Ciò è ben diverso, infatti, rispetto a quanto si riscontra nella linea, la quale può essere divisa all'infinito. Ma pure non si può mai pensare se non si pone un termine alla divisione. Ed è questo il motivo per cui chi vuol percorrere una linea divisibile all'infinito non potrà mai enumerarne le sezioni. Invece, nel caso che ci riguarda, è necessario concepire nell'oggetto mosso anche la presenza della materia, e nessuna cosa che sia infinita può realmente esistere, giacché altrimenti l'infinito non potrebbe più essere infinito. Ma ancora, se le specie delle cause fossero infinite per numero, neppure in tal caso la conoscenza sarebbe possibile, giacché noi reputiamo di sapere solo quando siamo riusciti a discernere le cause. Ma l'infinito per aggiunzione non può essere percorso in un tempo finito. Paragrafo 3. Necessità pedagogica di adeguare il linguaggio alla consuetudine e alla scienza. L'efficacia di una lezione è strettamente legata alle abitudini dell'ascoltatore, giacché noi stimiamo che si debba usare un linguaggio conforme a quello con cui siamo soliti esprimerci, e le cose dette in un modo diverso da questo non sembrano più le stesse, ma piuttosto incomprensibili e straniere per il fatto che non ci sono familiari. Infatti è noto solo ciò con cui abbiamo dimestichezza. E quanta sia la forza della consuetudine è provato dalle leggi, nelle quali le espressioni che più hanno di leggendario e di fanciullesco, proprio in virtù del fatto che sono quelle più comunemente in uso, hanno un peso maggiore che non la conoscenza stessa delle leggi. Non mancano indubbiamente alcuni che gradiscono solo le espressioni usate dal linguaggio matematico, ma vi sono altri che gradiscono le esemplificazioni e altri ancora che pretendono si faccia ricorso a testimonianze poetiche. Alcuni vogliono che tutto sia detto con precisione, ad altri la precisione dà fastidio, sia perché non sono in grado di annodare le fila di un ragionamento, sia perché questo è troppo stringato. Difatti l'esattezza ha certe caratteristiche che ad alcuni la fanno sembrare illiberale, non solo nei rapporti di affari ma anche nelle discussioni filosofiche. Ecco perché si ha il dovere di darsi una perfetta educazione per trattare ciascun argomento particolare in modo adeguato, giacché sarebbe assurdo pretendere che si ricerchino contemporaneamente la scienza e il modo per conseguirla. Anzi, non è agevole apprendere neppure una sola di queste due cose. Né d'altra parte si deve pretendere l'uso di un esatto linguaggio matematico indistintamente in ogni settore di ricerca, ma soltanto nel caso che si studino enti immateriali. Perciò un tal modo di esprimersi non si addice all'indagine sulla natura, giacché ogni ente naturale non è certamente privo di materia. Ecco perché dobbiamo esaminare in primo luogo che cosa è la natura, giacché questo è l'unico modo per rendere chiaro l'oggetto di cui la fisica si occupa, e se lo studio delle cause e dei principi sia compito di una sola o di più scienze.